Con Cristiana Paternò di Cinecittà News per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare qualche considerazione sull'annata cinematografica. Bentrovata! Buonasera, è sempre un po' difficile limitarsi a 5 film, questi sono esercizi pericolosissimi, è un appuntamento piacevole comunque. Li dico con 2 note proprio ciascun film per spiegare perché li ho scelti, lasciandone fuori altri meritevoli, però insomma questi sono quelli che mi hanno più colpito, impressionato e anche fatto provare qualcosa, perché quello che cerco è sempre qualcosa di nuovo e di diverso anche. Allora, il primo è La Chimera di Alice Rohrwacher, è una fiaba, ma è anche una parabola, un po' come sempre i suoi film, sul mondo contemporaneo, che è un mondo che non riesce più a cogliere la dimensione spirituale. C'è anche un dialogo tra vivi e morti che mi ha molto colpito. Anatomia di una caduta di Jean-Philippe Trier, è il film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes quest'anno, è un thriller, direi un thriller post-hitchcockiano, ma è anche la disamina di una coppia in crisi ed è particolarmente interessante perché poi tutto è visto attraverso gli occhi di un bambino non vedente, quindi è un doppio salto mortale. Poi Foglie al vento di Aki Kaurismäki, che è in sala in questi giorni, consiglio molto di andarlo a vedere perché è un po' il controfilm di Natale, ed è un film romantico ma anche una storia contemporanea sull'emarginazione contemporanea, un mondo del lavoro assolutamente spietato, con 2 attori veramente notevoli. Il male non esiste, Yusuke Hamaguchi, che è il regista che ha vinto il premio Oscar con Drive My Car, e adesso torna con questo film, veramente un cinema molto delicato che mette in scena dei conflitti, ma lo fa sempre con una grazia, con un'attenzione proprio all'umanità e qui anche parlando del rapporto con la natura, quindi cose che ci stanno molto a cuore. E infine Special Days, che è un film di Wim Wenders, ma è anche il film che rappresenta il Giappone agli Oscar e ha come protagonista questo straordinario attore giapponese Koji Yakusho, che diciamo è proprio il protagonista assoluto di questa storia zen, con al centro un personaggio speciale che ha fatto una scelta di vita controcorrente, anche qui con un rapporto molto forte con la natura e con la musica. Quest'annata la fruizione della sala, che dici? Si è recuperato il tempo perduto, c'è stato il grandissimo exploit del film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che ha battuto un po' tutti i record e ha riportato il pubblico in sala dopo la pandemia e dopo una ripartenza un po' lenta, un po' faticosa. Ieri ero al cinema, in una multisala, a periferia di Roma, e c'era veramente tutto esaurito, quindi insomma, sono sensazioni importanti e piacevoli, ecco, perché amo il cinema. Cristiana, ci sentiremo nel corso dell'anno, auguri! Auguri a voi e agli ascoltatori, naturalmente.